ma naturalmente prima peraltro di andare in onda ci siamo sentiti col comandante Scotti e mi ha detto precisa subito che magari tutto quello che raccontiamo stamattina potrebbe anche essere passibile di qualche modifica se naturalmente tutto questo pacchetto verrà ulteriormente emendato appunto con il passaggio alla Camera, per cui prendiamo tutto col beneficio di inventario, comandante. La precisazione l'ho fatta, va bene? Certamente. Allora, prima novità, i verbali di contestazione delle violazioni del codice della strada dovranno essere notificati non più entro 120 giorni ma entro 60. La prima cosa che mi viene da dire, comandante, è che questo impegnerà un po' di più i vostri uffici. Sì, dunque, esattamente. Allora, innanzitutto attualmente non sono 120 giorni, scusami la precisazione, no, ha fatto bene. 150. Se entrerà in vigore questa normativa ci troveremo ad avere un tempo brevissimo che sono 60 giorni dalla violazione, mentre questo ovviamente per quanto riguarda chi ha violato la norma, per quanto riguarda invece l'obbligato insolito, cioè il proprietario del veicolo, saranno 90 giorni dall'accertamento della violazione, comunque termini molto più ristretti che vedranno ovviamente la pubblica amministrazione messa alla prova, si dovranno ridurre le tempistiche, si dovranno razionalizzare tutte le modalità di lavorazione dei verbali e ovviamente dovremmo rispettare la norma. Dovrete prendere qualche persona in più, comandante. Credo che ormai è quello magari sarà oggetto di tutto il tema della riforma della polizia municipale, che è un altro tema molto importante in discussione. Ho detto 120, comandante, non perché io in realtà avevo 150, perché il mio collaboratore Alessandro Longoni, che mi aiuta a preparare le scalette, aveva scritto 150. Ho trovato sul Sole questa mattina 120 e ho pensato che avessimo sbagliato noi e quindi non ricordavo esattamente, come dire, la tempistica attuale della notifica. A suo tempo il Parlamento, sempre con il progetto di legge di cui stiamo parlando, ha proposto 90 giorni, il Senato li ha abbreviati a 60. Benissimo. Comandante, ovviamente tutto questo a far data da ora, dall'entrata in vigore delle nuove misure, non è niente di retroattivo, quindi qualora io avessi preso una multa fra gennaio e febbraio e questa non mi fosse stata notificata, valgono ancora i 120 giorni in quel caso. Precisamente. Quindi per chi facesse, come dire, affidamento sulle nuove norme, è bene che non faccia troppo affidamento su queste, vale per il nuovo. Certo. Sarà possibile poi pagare le multe a rate, anche questo è un tema molto interessante, naturalmente questa facoltà, questa opportunità sarà solamente concessa a chi ha dei redditi bassi. Sì, esatto, innanzitutto diciamo che è una novità, perché mentre prima ci si riferiva a una disposizione di carattere generale contenuta nella legge 689 dell'81, invece è stato inserito, o anzi verrà inserito l'articolo 202 bis nel codice della strada e dunque ci dovrà essere un limite di reddito che non dovrà essere superiore a 10.628,16 euro, aumentato per ognuno dei familiari conviventi di 1.032,91 euro. E la sanzione dovrà essere comunque superiore ad almeno 200 euro. Sono le nuove norme, a fronte di queste indicazioni si potrà richiedere il pagamento rateizzato. Quante rate saranno possibili? Dunque, ecco, questo dipende. Allora, il massimo di 12 rate se l'importo dovuto non supera 2.000 euro, mentre 24 se l'importo è entro i 5.000 e addirittura si può arrivare a 60 rate se l'importo dovuto supera i 5.000 euro. Ci auguriamo che nessuno arrivi a questa cifra. Infatti, perché altrimenti chiaramente bisognerà fare la parallela relazione ovviamente con l'infrazione commessa. Comandante, ma qualora volessimo pagare a rate, perché comunque la sanzione che ci è stata appioppata è piuttosto importante economicamente, a chi dobbiamo fare richiesta di dilazionare il pagamento? Dobbiamo innanzitutto preparare la relativa documentazione e in futuro sarà possibile fare richiesta direttamente agli sportelli presso i quali avviene normalmente il pagamento, quindi dell'organo di polizia che ha proceduto all'accertamento. Sempre facendo riferimento a questo articolo di Gianni Trovati del Sole 24 Ore di questa mattina, lui sostiene che occorre anche presentare un'istanza al prefetto o al vertice dell'ente che ha erogato la multa. Esatto, questo appunto dipende, perché ovviamente se si tratta di carabinieri e polizia di Stato allora abbiamo a che fare con la prefettura, mentre per quanto riguarda polizia provinciale e polizia municipale la gestione è diretta e quindi la domanda va rivolta agli uffici comunali o provinciali, ripeto, sempre che non ci siano poi ulteriori modificazioni. Ovviamente rimane ancora aperta la strada di fare ricorso contro la multa, ricorso che può essere inoltrato al giudice di pace, questa opportunità mi pare sia rimasta, no? Sì, certo, non sono stati toccati, diciamo, la struttura più profonda dei ricorsi per quanto riguarda il cittadino cittadino. Cambia invece qualcosa nell'organizzazione, ma sono più che altro questioni interne di organizzazione e di rappresentanza dell'ente di fronte al giudice di pace, quindi la controparte del cittadino. Direi che invece abbastanza interessante, se mi consentite di introdurre, la novità della sospensione della patente, dove la sospensione potrà essere sospesa, scusate il gioco di parole. Nel senso che all'attualità sappiamo che quando si procede al ritiro della patente e questa viene sospesa, qualunque attività di conduzione dei veicoli è inibita. Invece in particolari casi, qualora non sia derivato un incidente dalla violazione e per non oltre 3 ore al giorno, sarà possibile condurre il veicolo per recarsi al lavoro qualora il raggiungimento del posto di lavoro con i veicoli fosse assolutamente impossibile o comunque molto disagevole. Il cosiddetto sconto sulla sospensione della patente è stato peraltro un punto anche molto controverso, se ne è discusso tanto, lo hanno chiamato anche il cosiddetto emendamento Grappino, lo ha proposto il senatore della Lega Giampaolo Vallardi, Grappino perché in qualche maniera è come se si facesse riferimento al fatto che la sospensione della patente viene fatta per esempio per chi viene trovato un po' brillo al volante, comandante, non provoca magari danni appunto importanti, quindi in quel caso ci può essere applicato questo sconto. Sarà sicuramente un punto che farà ulteriormente discutere. Io tra un po' devo salutarla, volevo solo ricordare un'ultima cosa: se tornando al ricorso al giudice di pace contro la multa rimangono invariate le cosiddette spese di 38 euro, il cosiddetto contributo unificato, sì, che era stato già oggetto di un'altra nostra puntata, comandante. Sì, esatto, perché in realtà non si tratta più di quella cauzione prevista dal codice della strada, dichiarata poi incostituzionale dalla nostra Suprema Corte, ma si tratta di una cosa diversa, cioè è un contributo esattamente come avviene per l'introduzione di altre cause presso gli organi competenti e di conseguenza non è stato toccato al codice della strada, proprio perché esula, riguarda proprio di più il procedimento e l'atto giudiziario. Benissimo. Che non il codice della strada. Comandante, devo salutarlo, ho già rubato 17 secondi ad Alessandro Milan, buona giornata, ci risentiamo presto magari per approfondire tutto questo quando sarà varato anche dalla Camera il provvedimento per Salva Danaio. Buona giornata. A presto. Alessandro. E allora? Oggi monitoriamo l'apertura della borsa dopo quella devastante settimana che abbiamo lasciato venerdì, vediamo un po' se oggi, dopo il super accordo raggiunto in nottata anche in sede europea, le borse oggi sono un po' più serene. Staremo a vedere il voto agli extracomunitari nelle amministrative. Il PD ci riprova, vogliono lanciare un'iniziativa popolare per dare il voto agli extracomunitari alle elezioni amministrative. Alle 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, e allora eccoci qua, il nostro sondaggio di oggi. Parliamo di voto alle amministrative per gli extracomunitari, è una proposta che vuole lanciare il Partito Democratico. Che ne pensate? Questo è il nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Dovete votare su radio24.it, per ora prevalgono di poco i no al 59%, sono già oltre 3.000 i voti arrivati, e allora eccoci qua. Ne parliamo intanto con la senatrice Livia Turco del Partito Democratico, buongiorno, buongiorno. E benvenuta. Che vuol dire che fate una proposta di legge popolare con tanto di banchetti per il voto agli extracomunitari? Premetto che noi abbiamo fatto sabato una importante affollata riunione con amministratori locali, con associazioni, con tante persone immigrate, nuove cittadine. Abbiamo presentato una piattaforma del PD sui temi dell'immigrazione, che parte dalle questioni concrete dell'inserimento scolastico dei bambini, della ricerca del lavoro, di come si costruisce convivenza tra italiani e immigrati. Il tema è questo: come si sta insieme, come si costruisce convivenza, come si costruiscono delle comunità sicure. E qui appunto i temi sono quelli del lavoro, della scuola, sono quelli della legalità, sono ciò che possono fare le amministrazioni locali, sono i nostri comuni che vorrebbero fare molto ma che si trovano con le risorse pesantemente tagliate da parte di questo governo. Quindi questi sono stati i temi che abbiamo discusso. Sì. A partire da qui è però una riflessione più di fondo, perché la politica è fatta di urgenze, di quotidianità, ma anche di battaglie politiche e culturali più di fondo. Ora, questo del diritto di voto è una vecchia questione, una vecchia idea che peraltro non riguarda soltanto la sinistra, ci sono in Parlamento, ho calcolato 6-7 progetti di legge, ma a noi non interessa porre la questione in Parlamento, perché sappiamo benissimo che i rapporti di forza non sono favorevoli. Non passerebbe. Quello che a noi interessa, e questo vorrei discuterlo proprio un po' pacatamente, e di qui l'idea della proposta di legge di iniziativa popolare fatta non dal PD ma da uno schieramento ampio. Per esempio sabato già molte associazioni ci hanno detto: ma anche noi stiamo lavorando e vorremmo fare uno schieramento, un comitato promotore molto largo. E quindi non tanto il PD, perché non è che a noi interessi avere l'etichetta di partito, ma ci interessa una battaglia culturale fatta in questo senso, i banchetti, parlando con le persone per affermare questo tema. Ma le persone immigrate che sono qui, che pagano le tasse, che lavorano, è bene che siano sollecitate ad assumersi dei loro doveri e che quindi diano il loro contributo alla vita della comunità? Perché il tema del voto è questo, non è la concessione di un diritto, non è lo schema solito che si associa alla sinistra, che è il solidarismo sgangherato, venite tutti, cioè, questo è un repertorio che non sta in piedi. Dire diritto di voto significa dire a persone che sono qui da tanti anni, che pagano le tasse, che lavorano, che sono lavoratori, che sono famiglie, che sono giovani di seconda generazione. Ma voi questo paese lo amate? Questo paese lo rispettate? E quindi se avete dei doveri dovete avere anche dei diritti. Lei, sì, però in questo caso mi consenta, il tema, lei ha capovolto. Se il voto non è tanto e solo un diritto, è l'esercizio di un dovere e di una responsabilità verso la comunità, perché significa che tu partecipi alla comunità e quindi questo crea integrazione, crea inclusione e soprattutto crea la vera sicurezza, non quella quella magari sbandierata dalla Lega, che c'è, no, perché la sta ascoltando Matteo Salvini, intanto che saluto, buongiorno Salvini, eurodeputato della Lega. Ecco, no, perché lei, Turco, ha detto, avete detto, è anche una sfida culturale alla certo. Lega, questo, ecco. Sì, certo, sì. Quindi Salvini, non so, vuole su questo già una sfida culturale che accettate, dare il voto come anche diritto, ma anche come dovere di partecipare a una comunità da parte degli extracomunitari? Ma guardi, settimana scorsa è stato presentato, a proposito di integrazioni, di sfide e di Lega, una ricerca dell'Istituto Bocconi sulle città che meglio integrano i lavoratori stranieri, e la città che integra meglio appunto i lavoratori stranieri regolari è Verona. È la Verona brutta, cattiva, amministrata da un sindaco leghista da tempo, seguita da Treviso, anche lì comune guidato dalla Lega da 15 anni. Quindi l'integrazione sul campo la Lega sta cercando di farla, separando il legale dall'illegale. Sul diritto di voto noi abbiamo sempre detto che arriva alla fine di un percorso, è qualcosa che si conquista ad integrazione avvenuta, con la cittadinanza in tasca, altrimenti la distinzione fra chi è cittadino italiano e chi non è cittadino italiano va a farsi benedire. Cioè non basta pagare le tasse, vivere la comunità in maniera partecipata, essere integrati, cosa serve? Serve la cittadinanza. Ma appunto è un diritto che arriva alla fine di un percorso, non arriva a metà percorso per quanto ci riguarda, perché l'immigrazione, il tessuto sociale è integrato anche in base ai numeri. Il quartiere cinese di Milano fino a 15 anni fa era un quartiere modello, adesso se i numeri che arrivano dall'estero iniziano a essere maggioranza, e allora l'integrazione va a farsi benedire. Io parlo quotidianamente con tanti dei 199.000 immigrati regolarmente residenti a Milano, e vi posso assicurare che l'ultima delle loro preoccupazioni è andare a votare per il sindaco, per il consigliere di zona. Hanno giustamente altre preoccupazioni, che sono il diritto al lavoro, alla casa, alla sicurezza. Anche se, quindi... se c'è un po' questa anomalia, Salvini, magari a me non frega niente di quello che succede a Milano, io vivo a Milano, non mi interesso, non mi interesso della politica, non mi interesso di nulla, pago le mie tasse ovviamente eccetera, però ho il diritto di voto ogni 5 anni per votare il mio sindaco. Magari a fianco a me c'è un cinese, che ne so, che sa tutto, partecipa, fa riunioni, paga le tasse, regolare tutto, eppure lui non può, magari sicuramente è più interessato e più come dire, partecipa di più alla vita politica del suo quartiere, della sua città rispetto a me. Questo cinese ha il diritto riconosciuto dalla Costituzione dopo 10 anni, che mi sembra un lasso di tempo ragionevole per capire dove si vive, come si vive e come ci si vuole integrare. Dopo 10 anni uno fa richiesta di cittadinanza e con questo acquisisce diritti e doveri. Diritti e doveri che vanno sempre di pari passo. Però mettere la scorciatoia a mezza via del diritto di voto non mi sembra che faccia l'interesse di nessuno. È una scorciatoia. Allora, prima di qualche ascoltatore, io vorrei salutare anche il professor Giancarlo Blangiardo. Buongiorno. Buongiorno. Il professor Blangiardo dirige il Dipartimento di Statistica alla Bicocca di Milano. Con l'ISMU, di cui è collaboratore, avete fatto una ricerca relativa alla Lombardia, mi pare di capire, professore. Sì, sì. Per il momento, anche se ci sono dati, credo, anche nazionali, perché spesso si dice, quando si parla di diritto di voto e di extracomunitari, ma la domanda è questa: ma sono davvero interessati questi extracomunitari poi di fondo a votare? Voi avete interpellato circa 9.000 extracomunitari, con che risultati? Sono interessati a votare? Sì, allora il campione è assolutamente rappresentativo della realtà dei presenti in Lombardia. Dico presenti nel senso che si intendono sia coloro che hanno la residenza, ma anche coloro che vivono semplicemente, a volte anche irregolarmente. L'interesse è piuttosto ampio, nel senso che la dichiarazione andrei a votare, mi piacerebbe andare a votare eccetera, riguarda, parlo dei maggiorenni, 2/3 degli intervistati, con delle punte che raggiungono i 3/4 in corrispondenza per esempio dei filippini e punte di minimo che si osservano per i cinesi, arrivano al 30%, ma anche gli ucraini arrivano. Cioè, i filippini sono quelli che andrebbero più volentieri a partecipare alle votazioni? Sono quelli che dicono di essere più interessati, sì. Mentre meno gli ucraini, no, giusto, perché avete fatto almeno... I cinesi. I cinesi arrivano al 30%. Per chi voterebbero? Questa è l'altra domanda, perché insomma, generalmente, si sono anche espressi, cioè voteremo per il centro-sinistra e il centro-destra? Sì, dunque diciamo che abbiamo identificato un po' le due alternative e ciascuno esprimeva attraverso un voto da 0 a 10 dove si collocava più facilmente. E naturalmente poi abbiamo fatto un'aggregazione per capire chi era più chiaramente orientato da una parte o dall'altra. Insomma, alla fine è venuto fuori che un 42% è chiaramente orientato a sinistra e un 28% è chiaramente orientato a destra, centrodestra. Quindi c'è una discreta differenza, 14 punti, che sono più attenuati in corrispondenza delle femmine, però comunque rimane una differenza sensibile, e poi con alcune caratteristiche che identificano gruppi più orientati da una parte o più orientati dall'altra, anche rispetto proprio alla loro anzianità migratoria, rispetto alla religione, al titolo di studio e altre caratteristiche. No, certamente 42%. Onorevole Turco, la voglio fare un po' arrabbiare di lunedì mattina, non è che cercate sacche di voto? Ma questa è una vecchia, non mi fa arrabbiare perché questa fa parte della storia. Non ce l'ho fatta, abbastanza classica. È nuova, ecco, no, perché poi... Non, al momento chissà come sono le cose, quindi non è questa la valutazione. La valutazione riguarda proprio l'Italia, riguarda la qualità della nostra democrazia, riguarda anche noi italiani. Se si vuole avere una casa bella e ospitale, bisogna che non ci siano delle persone ospiti che si sentano in qualche modo a lato e quindi non pienamente responsabili. Ma sentito, Salvini dice una scorciatoia, prima finiscano il loro percorso. No, ma io capisco, cioè, non è nessuna scorciatoia, perché stiamo parlando di persone lungo residenti, quindi decidiamo gli anni, dopo 7 anni, dopo 10 anni che sono qui in Italia. Che quindi conoscono il nostro paese. Certo, bisognerebbe affrontare di petto un tema che è quello della lingua e della cultura italiana, rispetto alla quale per esempio questo centrodestra fa tanta retorica, dice i punti, se non imparate la lingua e la cultura italiana non potete rimanere qui. Dopodiché in Italia chi promuove e offre opportunità di lingua e cultura italiana per gli immigrati sono la Caritas, la Sant'Egidio, le associazioni cattoliche, tutti tranne la scuola pubblica. Allora, per esempio, facciamo, e questa è un'altra proposta che noi abbiamo contenuto in questa piattaforma del PD sull'immigrazione, prevediamo un diritto dovere dell'immigrato quando viene in Italia di fare un corso di lingua e di cultura italiana. Promuoviamo modalità di partecipazione politica che vanno al di là del voto. Certo, il voto deve essere la conclusione di un percorso, ma la conclusione di un percorso che abbia un senso per la vita della persona. Sì, vogliamo dire dopo 10 anni che sono qui in Italia? Ma insomma, lei pone una questione temporale. Salvini, ma adesso rientro dopo il traffico, dice la fine del percorso è la cittadinanza, essere italiani. Questo è il punto fondamentale per la Lega, per Salvini. Il traffico e poi rientriamo. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, diritto di voto agli extracomunitari per le amministrative, che ne pensate? Prevalgono sempre per ora i no al 59%. Sì, voglio sentire qualche ascoltatore. Issa da Verona, giusto? Buongiorno. Da Verona, buongiorno. La città più ospitale per gli immigrati, l'ha certificato la Bocconi in questo studio del professor Boeri, è vero? Anche io ho sentito, ho letto anche così con quel resoconto del professor Bocconi. Da Verona, non so se sia ospitale, ci sono comunque dei problemi, ma... Vabbè, i problemi insomma ci sono... Sì, dappertutto. Comunque, lei che ne pensa del voto? No, ecco, io dicevo proprio che di quel diritto di voto, come viene sbandierato, cioè che fosse praticamente il problema più importante degli immigrati, non credo, perché io intervengo in varie associazioni, cioè di difesa dei diritti dei migranti, in tutte queste varie cose qua, e la cosa principale è che la gente non lo sente questo come il punto principale. Mi dispiace essere un po' d'accordo con Salvini. Per una è volta un po' fatto. D'accordo con Salvini, le dispiace. No, Salvini. Mi dispiace molto, perché cioè, ha anche un po' ragione dire la gente che lui parla con 200.000 migranti in canese, è vero. Cioè, il migrante, i suoi problemi, cioè, li vorrebbe altri problemi. Sono altri problemi. Lei di dov'è, Issa? Da Verona. No, sono del Senegal. Del Senegal. Da Verona, sente, no? Il problema principale, cioè io personalmente, lo dico anche ai migranti, è la passività un po' del migrante rispetto a queste cose qua. Per esempio, sono d'accordo per la concessione della cittadinanza, cioè anche un po' confini, riducendo il tempo, così si potrebbe discutere. Ma quello che mi fa un po' male, dispiacere, è sentire qualcuno che sta in Italia da 15-20 anni e ti dice, sì, devo avere la cittadinanza, cioè il mio figlio non c'ha ancora la cittadinanza, ma il tuo figlio è qua da 15 anni, se tu fossi un po' più attivo nel cercare i tuoi diritti, perché i diritti non si regalano, si ottengono, cioè, tramite le mobilitazioni, le lotte, tramite i convincimenti, come... Cioè, ma mi piace molto, Issa, cioè le dice spesso, è la passività di chi sta qui e non sa neanche che magari ha diritto invece di avere delle cose che non li chiede, insomma, e sarebbero proprio suo diritto. Issa, io la ringrazio molto, devo andare un po' veloce, voglio andare a Frim, provincia di Padova, spero di pronunciarlo giusto. Beh, non mi piace che ci chiamino degli immigrati, no? Da dove viene lei a Frim? Sì, salve, buongiorno. Io ho la provincia del Kosovo, arrivo dal Kosovo, sono da parecchi anni in Italia, diciamo più di 15 anni. Quindi questo è il tema che avete messo oggi in discussione, molto calda per gli extracomunitari, nel senso che piacerebbe votare alle amministrative. A lei piacerebbe? Molto, molto, molto, perché siccome noi contribuiamo a questo paese, diciamo, il livello economico e altre cose, perché non possiamo votare anche nelle amministrative, diciamo, prima di acquisire la cittadinanza? Vuoi sapere perché non possiamo votare? Diciamo, faccio anche una domanda al signor Salvini. Lo so che la Costituzione non permette, però, siccome ultimamente si modificano le leggi, non so, sia per extracomunitari che per altre cose, si può modificare anche la Costituzione, allora, per mettere in discussione? No, bella domanda. Qua Salvini deve rispondere sia Issa da Verona, che le dispiace un po', Issa, ma è d'accordo con lei questa volta. E poi invece Afrim del Kosovo dice: io vorrei votare, perché non cambiate questa cosa? Cioè, che male fa Afrim se partecipa a tutto anche con le tasse e non può esprimere il suo sindaco? Ma perché il voto è un diritto che hanno i cittadini, coloro che hanno la cittadinanza. Ogni tanto qualcuno e cambiatelo, dice Afrim, dice cambiatela questa cosa. Sì, no, noi la Costituzione stiamo cercando con tutte le nostre forze di cambiarla per trasformare l'Italia in un paese federale, che è la nostra priorità. Poi sul diritto di voto ne riparliamo fra un po'. Ma votare per il sindaco è fondamentale. Ogni tanto qualcuno dice sì, ma è solo il voto per il sindaco, solo il voto per il comune. Secondo me il sindaco è il ruolo più importante, più del ministro, più dell'assessore regionale. Il sindaco è quello che decide com'è il futuro della tua città. Ma magari il nostro Afrim lo sa benissimo, e per questo vorrebbe esprimere anche lui. Ma io ritengo, ripeto, che sia la fine di un percorso. Molti stranieri alla fine dicono: ma sono quasi d'accordo con la Lega, un po' mi spiace, però non è così come me la raccontavano. Ma perché io sono convinto che anche nell'interesse dei cittadini stranieri non vadano accelerati percorsi che sono lunghi, che sono difficili. Io fra mezz'oretta vado all'Università Cattolica di Milano, dove ci sarà il ministro Maroni a un dibattito che si chiama Per un'integrazione possibile, col rettore della Cattolica, il sindaco di Roma, di Torino, di Milano. E sono processi lunghi che vanno accompagnati, vanno gestiti, va separata l'illegalità dalla legalità, e questo è il lavoro immane che sta cercando di fare il ministro Maroni. Alla fine io penso che si possa maturare la convinzione che tutti si abbiano dei diritti, ma alla fine di un percorso. Forzare queste tappe sortisce l'effetto esattamente contrario, sia per gli italiani che per gli stessi stranieri, che, ripeto, hanno altre esigenze, secondo me, che non votare per il sindaco domani mattina. Vorrei, prima di andare e tornare per un attimo al professor Blangiardo, Elisa da Roma, buongiorno, italiana immagino. Buongiorno. Che dice lei? Concordo con Salvini in pieno, perché verrebbe falsato tutto il panorama politico italiano. Quando uno è cittadino italiano vota, e come giustamente lui ha detto, la figura principale in questo paese non è nemmeno il Presidente del Consiglio, è il sindaco. Far votare, poi scusi se posso, invece di fare referendum o firme per questo, facciamo cose contro la corruzione, che non se ne può più in questo paese. Vabbè, ma questo è un altro, tema. Ma invece siccome tutti cercano voti, facciamo qualcosa contro la corruzione, interrogazioni, interpellanze, non si fa niente, sanno tutto e non fanno niente contro il PD, contro tutti, contro la Popolo della Libertà. Non si fa niente, il paese non ne può più. Va bene, grazie. Grazie, prego, Elisa. Prego, no, mi fermo qua. Voglio tornare professor Blangiardo, come detto avete fatto questo studio dell'ISMU, che è l'iniziativa e studi sulla multietnicità, c'è qualche dato che varca i confini della Lombardia che ci può dire rispetto a quelli di prima? Beh, sì, c'è stata un'estrapolazione del dato lombardo, cioè ammettendo che le incidenze, le percentuali che abbiamo stimato per la Lombardia dovessero valere sul piano nazionale, abbiamo cercato poi di contare sostanzialmente quanti sarebbero stati i voti da una parte piuttosto che dall'altra. E alla fine, sempre date le ipotesi, verrebbero circa espressi in maniera chiara, perché poi sono quelli che invece non hanno preso posizione, 1.100.000 orientati a centrosinistra e circa 900.000 orientati verso il centrodestra. Che me lo dica in percentuali, lei che è bravo con la matematica, era un disastro, 1.100.000, 900.000, cos'è, 60-40? Meno. Tenendo presente che c'è poi la quota, la percentuale di quelli che non si sono espressi. Ah, beh, certo, sì. La contrapposizione gli astenuti, due... gli astenuti anche tra i mille. Diciamo quelli non chiaramente orientati. Il rapporto comunque è di circa 2-3. 2-3. Perfetto. Io mi devo fermare. Sentiamo se Flora d'Ancona, come ultima ascoltatrice, ce la facciamo. Flora, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Dica, lei? Senta, io niente, volevo dire a Salvini, no, io ho 15 anni qui e magari la cittadinanza non lo voglio, no? Ma la mia figlia che ha 15 anni lo vuole. Ma lei è straniera? Io da 15 anni che sono qui. Ah, di dov'è lei? Di dov'è? Io sono dall'Albania, no? Dell'Albania. 15 anni che sono qui, io nel mio paese mi chiamano rifugiato, qui mi chiamano straniero, come mi devo comportare? Ma mi scusi Flora, ha sentito prima il nostro Issa da Verona, se lei è qui da 15 anni vuol dire che ha diritto sua figlia, mi pare di capire, ad essere cittadina italiana, anche lei può fare la richiesta, ma l'ha fatta? Mettiamo che io non lo voglio, io personalmente vabbè. È caduta la linea, cioè non lo vuole e quindi vuole votare. Questa è un po' una posizione un po' curiosa, però è caduta la linea e è anche finito il tempo. Io devo ringraziare l'onorevole Livia Turco del PD e Matteo Salvini della Lega e il professor Giancarlo Blangiardo. Come detto, come vedete, insomma, questi sono i temi poi interessanti. Forse non sarà la preoccupazione primaria per molti immigrati, ma è un tema invece molto caldo per altri. Il 60% per ora dice di no. Votate su Radio24.it, Oscar Giannino, che si occupa di Grecia e quant'altro, cioè la situazione economica e finanziaria dell'Europa davvero difficile. Grazie a Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia. Scrivetemi bianco o nero @radio24.it. A domani.